Perfetta notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Giornata storica questa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, per l'Italia, per la storia italiana, perché per la prima volta oggi è stata usata, pensate, la ghigliottina, la Repubblica Italiana, non la Repubblica Francese, proprio da noi, questo strumento che era stato ideato qualche tempo fa, non era mai stato usato, oggi è stato necessario da parte della Presidente della Camera Boldrini per evitare che saltasse questo decreto legge, non fosse approvato IMU Banca Italia, tanto contestato, per evitare l'ostruzionismo della Lega e quindi evitare anche che poi alla fine questa seconda rata di questa infinita IMU si dovesse pagare. Quindi giorno della ghigliottina oggi, avete visto quante sorprese riserva la politica italiana. Poi c'è stato anche l'accordo, sembra arrivato quasi in porto più o meno sull'Italicum tra PD e Forza Italia, con vari mugugni, con alcuni assestamenti, ma insomma poi vedremo. Renzi ha assicurato il paese deve tornare a volare. E poi è stata anche la giornata di alcuni malintesi o di cose intese male, per esempio sulla ministra Chiang, l'annuncio della agenzia Reuters che ha detto si dimette, la ministra si dimette venerdì, e ci si chiedeva nelle redazioni perché poi annuncia di dimettersi non il giorno stesso ma a distanza di due giorni. Invece poi si è corretta l'agenzia e ha detto che si dimetteva il portavoce della ministra, insomma una certa differenza. E poi in quello che dicevo, forse si è inteso male più che malinteso, la vicenda Electrolux. Oggi c'è stato questo tavolo di trattativa al Ministero dello Sviluppo, ebbene il ministro Zanonato ha detto l'azienda non ci ha convinto, mentre sempre alla fine di questo tavolo i governatori delle varie regioni implicate dicono siamo soddisfatti, oggi c'è stato un passo avanti. Non si è capito insomma se è un passo avanti, un passo indietro o immobilismo, ma cercheremo poi di capirlo anche attraverso gli ospiti e i loro interventi. Cerchiamo intanto di capire com'è andata la giornata. A partire dall'IMU Banca Italia, la Presidente Boldrini impone la ghigliottina, sia il decreto, dunque caos in aula. Legge elettorale, accordo raggiunto tra PD e Forza Italia, cambia la soglia per il premio di maggioranza e lo sbarramento. Auto, nasce la nuova Fiat Chrysler, sposta la sede legale in Olanda ma pagherà le tasse in Gran Bretagna. Electrolux, l'azienda dice avanti sul taglio del costo del lavoro e il ministro Zanonato dice serve un piano industriale. Calcio, la Nucerina annuncia ricorso contro l'esclusione dal campionato di Lega Pro per il derby farsa, e per la Coppa Italia in campo questa sera Napoli-Lazio. Partiamo quindi dall'ultima notizia importante in ordine cronologico oggi, che è stato appunto il decreto legge IMU Banca Italia. Scadeva questa sera a mezzanotte, cioè doveva essere convertito in legge per non decadere. Il Movimento 5 Stelle, vi dicevo, ha fatto ostruzionismo sul provvedimento da questa mattina perché è contrario alla norma relativa alla Banca d'Italia, che poi cercheremo di capire. E alla fine la Presidente della Camera Boldrini ha deciso quindi di utilizzare questo strumento della ghigliottina. È la prima volta, vi dicevo, nella storia della Camera e nella storia italiana, la Presidente taglia così i tempi di discussione sul decreto IMU Banca Italia per bloccare l'ostruzionismo appunto dei 5 Stelle. Sì, sono stati 236, i no 209, monete di cioccolata verso i banchi del governo, bagarre, insulti, spintoni, insomma sentiamo. Indico quindi la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge 1942 di conversione del decreto legge in esame. Dichiaro aperta la votazione. Indico aperta la votazione. Allora. Allora. Indico i colleghi a votare. Allora. Bene. Togliete quei cartelli. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Insomma, questo è il senso dell'atmosfera, diciamo, piuttosto agitata. Anche su questo potete fare i vostri commenti, su come è andata a finire questa giornata, alla pagina Facebook di Effetto Notte, la riconoscete Effetto Notte trattino Roberta Giordano, o attraverso i messaggi 349-238-6666. Lo stesso potete dire anche a proposito di quello che pensate, per esempio, del Capo dello Stato, perché il Movimento 5 Stelle continua la sua battaglia anche contro il Capo dello Stato. Il Movimento 5 Stelle lancia un nuovo affondo nei confronti del Quirinale e lo fa con un sondaggio sul portale internet dei suoi parlamentari, con il quale si chiede ad iscritti e simpatizzanti di votare quello che a loro giudizio è l'atto più grave compiuto dal presidente Napolitano e per il quale il capo dello Stato dovrebbe dimettersi. Tra le possibili risposte figurano fra l'altro la distruzione delle intercettazioni dell'inchiesta Stato Mafia che lo vedono protagonista ed il fallimento delle larghe intese, questioni per le quali il Movimento 5 Stelle resta intenzionato a chiedere l'impeachment del Presidente della Repubblica. Il nuovo attacco arriva dopo le polemiche per le dichiarazioni del grillino Sorial, che ieri aveva paragonato Napolitano ad un boia, parole per le quali oggi il deputato 5 Stelle è stato indagato dalla Procura di Roma per vilipendio del capo dello Stato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi quindi l'accordo oggi sulla legge elettorale tra PD e Forza Italia, anche se la minoranza del PD continua comunque a criticare alcuni punti. L'intesa tra il Cavaliere e il Sindaco di Firenze rivede alcuni aspetti della prima versione del cosiddetto Italicum. Le novità più importanti riguardano la soglia minima per entrare in Parlamento per chi si presenta in coalizione che passa dal 5 al 4,5%. Viene alzata poi l'asticella per ottenere il premio di maggioranza dal 35 al 37%. Il premio non è più del 18 ma del 15 e in totale una coalizione non può superare il 55% del Parlamento. Intesa anche per le forze politiche che hanno una forte connotazione territoriale, il caso della Lega: entra chi ottiene il 9% almeno in tre regioni. Il testo che recepisce l'accordo tra Partito Democratico e Forza Italia sarà così domani in aula alla Camera. I piccoli partiti puntano però ad ulteriori modifiche, diversi nodi da cambiare anche per la minoranza del PD. A questa replica Elena Boschi, responsabile riforme del Partito Democratico. Non credo che possa saltare per un singolo punto, ognuno ha la legge elettorale ideale in testa, purtroppo quando ci sono tanti soggetti che devono trovare un accordo non è facile accontentare tutti. Renzi aggiunge: ora avanti con le riforme, mai più potere di ricatto ai piccoli. Soddisfatto Brunetta, Forza Italia. Io credo che l'accordo sia un buon accordo, quello iniziale e quello modificato in ragione dell'ascolto dei piccoli partiti. A bocciare l'intesa 5 Stelle, Fratelli d'Italia e SEL. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Passiamo adesso all'avvertenza Electrolux. Nel giorno del via alle trattative al Ministero dello Sviluppo Economico sulla crisi dell'azienda, la tensione resta alta. I sindacati chiedono infatti che l'azienda ritiri il piano di riduzione degli stipendi prima di intavolare qualsiasi discussione. Electrolux ha replicato di non voler lasciare l'Italia, pur confermando le difficoltà allo stabilimento di Porcia per la scarsa competitività del settore lavaggio. Allora sentiamo il Ministro dello Sviluppo Zanonato. Siccome su un punto c'è un elemento di perplessità da parte nostra e di forte preoccupazione, questo punto in particolare si chiama Porcia, poi ci sono altri problemi e altre preoccupazioni, ma il principale elemento di preoccupazione è Porcia, abbiamo chiarito che non esiste soluzione Electrolux senza che si salvi e continui a sviluppare la propria attività produttiva lo stabilimento di Porcia, che è il più grosso e più importante, dove ci sono anche la direzione, tutta una serie di altre presenze nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale di questa azienda. E adesso sentiamo invece la governatrice del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani. Ogni trattativa si può fare soltanto se vengono tenuti insieme tutti e quattro gli stabilimenti e se il piano industriale riguarda tutti e quattro gli stabilimenti. Questo è un punto per noi fondamentale. E quindi credo che oggi il risultato sia stato da questo punto di vista straordinario, perché è stato posto come paletto imprescindibile all'azienda, la quale, oltre che parlarci di costo del lavoro, deve però iniziare a parlare in modo molto efficace anche del suo piano industriale, di quella che è la strategia che intende impostare nei prossimi anni. Ed Electrolux alla Fiat, si chiamerà Fiat Chrysler Automobilize, il nuovo gruppo nato dall'unione della casa torinese e di quella di Detroit. Sede legale in Olanda, residenza fiscale a Londra e quotazione a New York. La casa automobilistica nata con gli Agnelli a Torino annuncia le novità che erano in cantiere da tempo. Nuovo nome per la holding: Fiat Chrysler Automobiles. Sede legale ad Amsterdam, che permetterà agli Agnelli di continuare a contare anche con meno del 30% della nuova Fiat. Residenza fiscale in Gran Bretagna per ovvi motivi fiscali e quotazione Wall Street da ottobre, per poter rivolgersi al mercato dei capitali americani. La holding investirà 8 miliardi di euro nel 2014, mezzo milione in più dell'anno scorso. Una giornata storica, ha commentato l'amministratore delegato Sergio Marchionne. Il manager ha anche detto che il suo impegno a Detroit durerà per almeno 3 anni e che il suo sostituto sarà un interno. A livello operativo non dovrebbe cambiare molto, almeno stando agli annunci. Nessuna novità per gli impianti produttivi in Italia e nel resto del mondo e nessun impatto sui livelli occupazionali. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E nonostante i problemi del paese, il presidente del Consiglio Enrico Letta è però ottimista. Oggi a Bruxelles, il presidente del Consiglio e alcuni ministri hanno incontrato i commissari europei in vista del semestre della presidenza dell'Unione Europea. Dopo 6 anni di crescita ininterrotta, il debito pubblico italiano nel 2014 si ferma e ricomincia a scendere. Credo che questo sia sicuramente un punto essenziale. Tutti questi dati, conti in ordine, crescita, che sono i dati che abbiamo presentato oggi e che ci rendono oggi soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto, non possono consentirci di autocompiacerci finché il dato sulla disoccupazione, sui nuovi posti di lavoro e sulla lotta alla disoccupazione giovanile non riesca finalmente a raggiungere risultati. Parliamo anche di evasione fiscale enorme, evasione fiscale. Un sequestro da 270 milioni è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Roma nei confronti di Giovanni De Pierro, imprenditore noto alla giustizia che negli ultimi 20 anni ha accumulato un enorme patrimonio grazie agli appalti pubblici. L'uomo creava società ad hoc che poi chiudeva nel giro di pochi mesi senza pagare tasse né versare i contributi previdenziali per i dipendenti. Il tenente colonnello Gerardo Mastrodomenico del GICO della Guardia di Finanza, sentiamolo intervistato da Monica Ceravolo. Con l'operazione odierna abbiamo cautelato beni immobili e società per circa 270 milioni di euro di stima, 14 società estere e numerosissimi conti correnti sia in Svizzera che nel Principato di Monaco. In Svizzera, dove è stato rinvenuto ed è attualmente cautelato un conto corrente con 14 milioni di euro. Il destinatario del provvedimento è un imprenditore di origini campane, De Piero Giovanni, da tempo residente a Roma e ultimamente trasferitosi in Barcellona. Parliamo di Coppa invece per chiudere, la Coppa Italia con Dario Ricci. Come va Dario tra Lazio e Napoli? Sì, siamo sullo 0-0 al San Paolo Roberta, al 26esimo del primo tempo. Ricordiamo che chi vince trova in semifinale la Roma, quindi potrebbe essere un derby, no? Oppure un accattivante Roma-Napoli. Staremo a vedere. Sì, sempre succulento il derby del sud. Finora poche emozioni al San Paolo, un Napoli che tiene il pallone, che governa il gioco, ma finora ha creato poche occasioni, una Lazio attenta a non scoprirsi. Hernanes in panchina, importante dirlo Roberta, perché Hernanes, se lo sappiamo, è nel mirino dell'Inter e lo quindi sappiamo. Di solito per i giocatori in partenza si evita di farli infortunare proprio all'ultimo minuto, quindi è in panchina, quindi vuol dire che qualcosa ancora di questa trattativa c'è. Avete capito i stratagemmi che occhio lungo che ha Dario Ricci? Grazie Dario, poi vediamo se ci fanno emozionare di più allora. A dopo. Ciao Dario. Adesso ci fermiamo perché così aggiorniamo invece chi viaggia. Vi ricordo che c'è sempre la pagina Facebook Effetto Notte per i vostri commenti. Ne leggo anche diversi, vedo al 349-238-6666. E chi se la prende con la presidente Boldrini, Maria Elena dalla Sardegna, e chi dice anche appunto che perché hanno messo insieme l'IMU con la legge sulla Banca d'Italia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi. Prima di approfondire il primo tema di oggi con i primi ospiti tra pochissimo, vi ricordo, se aveste mai acceso la radio in questo momento, ma ricordatevi di accendere alle 21 puntuali, quali sono state le notizie principali di oggi. Sia IMU Banca Italia, la presidente Boldrini impiega la ghigliottina contro l'ostruzionismo del Movimento 5 Stelle e scatena il caos in aula. Legge elettorale, accordo raggiunto tra PD e Forza Italia, cambia la soglia per il premio di maggioranza e lo sbarramento. Auto, nasce la nuova Fiat Chrysler, sposta la sede legale in Olanda ma pagherà le tasse in Gran Bretagna. Electrolux, l'azienda dice avanti sul taglio del costo del lavoro, il ministro Zanonato commenta, serve un piano industriale. E per il calcio la Nocerina annuncia ricorso contro l'esclusione dal campionato di Lega Pro, per la Coppa Italia ci sono in campo Napoli-Lazio. Bene, allora parliamo adesso di questo accordo che sarebbe stato raggiunto tra Forza Italia e PD sulla legge elettorale. Cioè, Renzi, vedo adesso la notizia di poco fa che dice è stato rotto l'incantesimo, quindi ciò che impediva, evidentemente immobilizzava la politica italiana, impediva da anni di fare una riforma elettorale. Ha battuto il porcellum, qualcuno parla comunque di porcheria, Matteo Salvini ha ritirato fuori qualcosa di maialesco, diciamo, dicendo a me a occhio questa sembra una porcheria. Probabilmente non la penseranno così l'onorevole Lorenzo Guerini, che saluto. Buonasera. Buonasera, onorevole portavoce della segreteria nazionale del PD, che ringrazio particolarmente perché fa parte della commissione affari costituzionali della Camera, che proprio alle 21 si è riunita per andare avanti a oltranza, insomma, a discutere, no Guerini? Sì, non si è ancora iniziato, ma inizierà tra poco. Bene, appena le fanno un fischio, però mi avvisi, va sì, bene? Sì, siamo quasi in dirittura. Grazie. Poi c'è l'onorevole Deborah Bergamini, ben ritrovata anche a lei, onorevole. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Responsabile della comunicazione di Forza Italia. Allora, onorevole Guerini, quindi l'accordo è stato raggiunto. Per sintetizzare all'ascoltatrice e agli ascoltatori, quali sono state le cose che ancora erano un po' in ballo, in termini di trattativa, cioè il premio di maggioranza che scende al 15%, non più al 18%, quindi chi raggiungerà chi passerà almeno al 37%, che va al 37% dei voti, quindi non più il 35%, dovrà averne qualcuno di più, il 37% avrà non il 18% in più per avere la maggioranza in Parlamento, ma un 15% in più, no? di voti, quindi. E poi è stata recepita la cosiddetta norma salvalega. Sì, però Salvini non mi sembra tanto contento. Com'è? È stato trambusto per questa salvalega, che tanto che la minoranza dei PD non è contenta di questa salvalega, eppure ma neanche Matteo Salvini, segretario della Lega. Come mai? Non vorrei iniziare con una polemica subito. Diciamo che il primo punto è che va sottolineato è che siamo arrivati ad un accordo sullo sblocco di un processo riformatore che in questo paese da anni si attende. Voglio ricordare che l'accordo non prevede solo la legge elettorale, ma prevede anche il superamento del Senato, del bicameralismo perfetto e una modifica sostanziale del titolo quinto della Costituzione. Quindi le competenze oggi, delle regioni, tutto nel pacchetto, diciamo. Quindi. È tutto nel pacchetto, quindi insomma deve essere letto questo accordo con uno sguardo un po' più ampio rispetto allo sguardo che si sofferma in questo momento, logicamente, sul tema della legge elettorale, ma appunto ha l'ambizione di affrontare dei nodi che riguardano il funzionamento delle istituzioni del nostro paese, che sono nodi che in questi anni hanno determinato rallentamenti, difficoltà e criticità. L'accordo ultimo che è stato raggiunto modifica, recependo anche il dibattito politico che si è aperto nel nostro paese, anche tra le forze politiche presenti in Parlamento. L'accordo originario che era stato siglato, che era stato definito con Forza Italia, e in particolar modo su un tema che è quello appunto del premio di maggioranza, con l'innalzamento al 37% e l'abbassamento al 15% del premio di maggioranza per accedere al premio e direttamente al primo turno. Credo che sia questo un punto di equilibrio importante, che è stato raggiunto anche con uno sforzo significativo rispetto alle posizioni di partenza di tutti i contraenti d'accordo. A questo si accompagna l'abbassamento della soglia di sbarramento dal 5 al 4,5, che è un altro tema, come dire, che è stato portato alla nostra attenzione con un richiamo alla cura particolare delle forze minori. E poi c'è il tema anche della presenza in alcune regioni di forze fortemente radicate, che era già presente anche nell'accordo che era stato siglato alcuni mesi fa al Senato e che oggi si ripropone sotto l'appellativo Salvalega. Non è ancora definito come viene declinato concretamente questo aspetto, è oggetto del percorso di approfondimento che in queste ore si sta tenendo. Dopodiché insomma Salvini può dire quello che vuole, lui di porcate se ne intende, visto che insomma il porcellum diciamo che ha le impronte digitali di qualche esponente leghista, e dall'altro lato insomma può dire quello che vuole, ma la richiesta e l'attenzione particolare su questo aspetto insomma è stata sottoposta alla nostra attenzione per interposta persona, ma dalla Lega stessa, insomma, quindi questo tema c'è, lo stiamo affrontando. Io penso che sia il momento questo non tanto di abbandonarsi in polemiche, ma di poter provare ad arrivare a un risultato positivo. Come ogni risultato non è la legge elettorale che ogni forza politica ritiene la migliore, è un accordo tra diverse istanze, tra diverse visioni, ma io penso che possa regalare al Paese una legge elettorale che garantisce governabilità, che garantisce appunto la possibilità nel momento in cui viene scelta una maggioranza, questa maggioranza di poter governare. Deborah Bergamini, anche lei è altrettanto soddisfatta come Guerini? Ah, dunque, partiamo dal presupposto che una legge elettorale perfetta non esiste in natura. Nel lavoro di preparazione che ha portato a questo accordo, anche Forza Italia ovviamente ha fatto un'analisi comparativa dei tanti sistemi di legge elettorale che ci sono in paesi comparabili al nostro, però non esiste la legge perfetta. Perché? Perché la legge elettorale è sempre frutto, lo ricordava prima il collega Guerini, di una negoziazione spesso serrata fra le necessità di forze politiche che hanno profili diversi e che quindi devono trovare una sintesi che lascerà sempre scontenti tutti sotto specifici aspetti. Noi siamo contenti che finalmente le due maggiori forze politiche italiane abbiano trovato un modo diverso di condursi. C'è, mi sembra, sincerissima la volontà da entrambe le parti di avviare un percorso di profonda riforma di questo Paese, un processo tra l'altro urgentissimo e troppo a lungo rimandato, e sulla base di questa volontà sincera anche noi abbiamo fatto delle rinunce rispetto a quello che era stato l'accordo di partenza in relazione alla legge elettorale, perché lo ricordo, eravamo partiti da un modello fedelissimo a quello spagnolo, che era quello che forse garantiva di più i due grandi partiti. Adesso non è il momento qui di starlo a spiegare, ma sicuramente da lì eravamo partiti. Ecco, rispetto a quella partenza il punto di caduta è molto distante. Non nascondiamo il fatto che l'innalzamento della soglia al 37% per noi significa una molto più ampia possibilità di andare al cosiddetto ballottaggio. Questo sappiamo altrettanto bene che è un rito che penalizza tradizionalmente il voto moderato, l'elettorato moderato. Quindi siamo soddisfatti di questa legge, viene incontro alle esigenze che avevamo manifestato all'inizio? No, però è una legge, però significa che siamo stati in grado, mettendo da parte pregiudizi, irrazionalità, capricci, e tanti ne abbiamo visti in questi lunghi anni di conflitto nel nostro paese, di metterli da parte veramente per l'interesse del paese. Chiarissimo. Renzi ha detto dobbiamo far sì che il paese torni a volare, ho visto poco fa, e siamo d'accordo assolutamente, non deve però volare con ali di cera, e infatti le riforme sono il primo passo. Facciamo volare come diceva Modugno, però onorevole Guerini, mancano in questo accordo le primarie, non sono previste come regola. Renzi aveva detto, noi, visto che ci sono le liste bloccate, per compensare le liste bloccate la mancanza di preferenze, aveva detto faremo le primarie, così daremo comunque modo agli elettori di scegliere quelli che saranno i candidati poi in lista. Però è chiaro che se non si mette come norma vincolante, poi sarà facoltativa chi lo farà e chi non lo farà. Certamente sì. Noi avremmo preferito che potessero essere inserite come obbligo per legge, però insomma, lo diceva prima la collega, stiamo la legge elettorale è un compromesso tra diverse istanze, tra diverse visioni, dopodiché il Partito Democratico per selezionare le proprie candidature userà lo strumento delle primarie, così come abbiamo fatto nel passato, perché è anche statutariamente previsto per quanto riguarda il nostro partito. Pensiamo che però, anche qua io vorrei che non si enfatizzasse troppo un elemento e se lo si raccontasse per come è in realtà. Noi stiamo parlando di liste molto corte, parliamo di collegi plurinominali con una media di popolazione residente di 500.000 circa persone, abitanti, significa avere un rapporto molto diretto tra eletto e elettore. Parliamo, ripeto, di liste molto corte, in alcuni casi di collegi in cui ci sono liste di 3-4 candidati, quindi insomma io penso che questo rapporto sia molto più diretto rispetto alle liste con le circoscrizioni del Porcellum, che prevedevano liste bloccate di 27-28 candidati, ad esempio della realtà lombarda da quale io provengo, in cui insomma il rapporto tra eletto e elettore era francamente molto, molto distante, molto labile. C'è questo rapporto invece molto più ravvicinato. Certo, avremmo preferito che ci fossero le primarie per legge, oppure avremmo preferito pensare magari a collegi più ampi con la possibilità di inserire le preferenze, però insomma questa è stata la fine, questo, insomma, questo è l'accordo compromesso che si è realizzato e se l'accordo che si è realizzato è finalizzato ad una legge che garantisca la governabilità, cose di cui questo paese ha sofferto in questi anni, che l'attuale legge elettorale, con i premi di maggioranza differenti tra Camera e Senato, con le liste lunghe, con i problemi che ha determinato, non poteva garantire. Io credo che insomma oggi partiamo con questo processo, c'è il dibattito parlamentare, certo c'è un accordo politico ma adesso Guiri, mi scusi, volevo farvi, siccome so che lei deve scappare poi in commissione, prima che mi abbandoni così senza che io le abbia fatto l'ultima domanda, chiedo a lei, a Deborah Bergamini, molto sinteticamente vi prego di rispondere, questa che sto per farvi è una domanda terribile, terribilmente maliziosa, direi quasi maligna, cattivissima, insomma, non è che oltre ad aver trovato questo accordo, quindi aver smosso, sbloccato un po' la situazione, voi tra PD e Forza Italia, piano piano intendete spingere, diciamo, a larghe intese vostre tra di voi per andare al voto anticipato? Mi risponda proprio in modo telegrafico. Per quanto ci riguarda, assolutamente, assolutamente no. Anzi, io direi che proprio il processo di riforme che intendiamo realizzare è la garanzia migliore in questo senso, perché modificare la Carta Costituzionale per quanto riguarda il Senato, per quanto riguarda il titolo quinto, necessita di tempi non brevi, anzi tempi abbastanza lunghi, quindi insomma, la risposta è già nelle cose che vogliamo fare. Lei ancora un minuto, Guerini? Un minuto solo, poi devo veramente andare perché sta per iniziare. Sì, Bergamini, mi risponde anche lei proprio sinteticamente, che poi voglio chiedere una cosa a Guerini un po' così. Bergamini. Noi siamo all'opposizione, quindi chiedere a una forza che è all'opposizione se vuole andare a votare o non ci vuole andare è un po' scontato. Dopodiché noi ci stiamo misurando sul cammino che stiamo facendo. Abbiamo messo da parte qualsiasi intento elettoralistico fino a quando saremo in grado, e lo dobbiamo dimostrare giorno giorno, di fare le nuove regole, di riformare il Paese. Questa è la nostra priorità. Benissimo. Guerini, è vero che Renzi ogni tanto la chiama Arnaldo perché le ricorda Forlani? l'ha detto una volta, insomma, così. Questa voce maliziosa. È diventato un soprannome che se in transatlantico le notizie circolano velocemente. E arrivano i giornalisti. Insomma. Lorenzo Arnaldo Guerini. No, non vorrei che si prendesse Forlani. Quindi... Buon lavoro comunque, grazie. Mi raccomando, lavorate grazie. Sodo. Grazie Guerini, grazie. Buona serata a lei, gli ascoltatori. A lei, grazie anche a Bergamini. Buonasera a lei, Deborah Bergamini, grazie. Grazie, buona continuazione. Bene, adesso velocissimamente, prima di questa pausa, volevo leggere qualche vostro messaggio di tantissimi che sono arrivati alla pagina Facebook di Effetto Notte sulla figura di Napolitano e le polemiche di questi giorni dei 5 Stelle. Vittorio dice hanno ragione i 5 Stelle. Nicola dice ma lo chiamate capo dello Stato quando si aumentò lo stipendio di 8.000 euro quando la gente non aveva da mangiare. Alberto, ne sei certo, l'hai visto tu su internet, questa è un'altra cosa, mette un'immagine. Maurizio dice boia chi molla, come hanno detto ancora oggi i 5 Stelle. Sergio è perfettamente d'accordo con Tony. Domenico avrebbe fatto bene a non accettare il secondo mandato Napolitano. Tony dice il peggior presidente della Repubblica dall'approvazione ai carri armati a Budapest alla firma agli scudi fiscali al disastro Monti Fornero. Oscar, non ho votato Movimento 5 Stelle ma in questo caso hanno ragione. Tullio è un personaggio che da 50 anni naviga nella politica italiana e tutti sappiamo bene cos'è la politica italiana, dice. E poi Floriano, una persona anziana e stanca che viene tirata per la giacca da più parti, dimostra però di sapersi egregiamente difendere. E poi Massimo, penso che non sia degno di rappresentare gli italiani. Anche Nicola molto duro. Giuseppe dice ha espresso il mio pensiero. Tony che dice che il Presidente della Repubblica è il peggiore che abbiamo avuto. E poi Ele dice ha fatto quello che ha potuto in questo periodo difficile, non sarebbe stato facile per nessuno fare il Presidente con un Parlamento come il nostro. Dopo Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano, sempre con voi. Stavo guardando adesso notizie di poco fa. Abbiamo lasciato quindi non solo la portavoce di Forza Italia Deborah Bergamini, ma anche Lorenzo Guerini, portavoce della segreteria del PD, che doveva a momenti entrare nell'aula della Commissione Affari Costituzionali della Camera per continuare a discutere sulla legge elettorale. Bene, notizia di questi istanti: il Movimento 5 Stelle si presenta in massa nella sala del Mappamondo, dove appunto sta per iniziare, più o meno iniziato, l'esame della legge elettorale, e chiedono di partecipare i grillini a tutti i lavori. Poco prima, stessa iniziativa nella Commissione Giustizia. Quindi, quando abbiamo lasciato Guerini, probabilmente si sarà ritrovato davanti l'esercito del Movimento 5 Stelle. Adesso, tra poco, cercheremo di spiegare un po' di aspetti, diciamo, economici, finanziari, di politica industriale di oggi, però vi ricordo prima i fatti principali. Passa il decreto IMU Banca Italia, la Presidente Boldrini impone lo strumento della ghigliottina e dunque in aula scoppia il caos. Legge elettorale, accordo raggiunto tra PD e Forza Italia, cambia soprattutto la soglia per il premio di maggioranza e lo sbarramento per i piccoli partiti. Auto, nasce la nuova Fiat Chrysler che sposta la sede legale in Olanda e pagherà poi le tasse in Gran Bretagna. Electrolux, l'azienda dice vado avanti sul taglio del costo del lavoro, ma il ministro Zanonato chiede che ci sia un piano industriale. E per il calcio, in campo per la Coppa Italia, Napoli-Lazio. Ed ecco qui con Alberto Orioli. Ciao Alberto. Buonasera. Vice direttore del Sole 24 Ore. Cerchiamo di sparare della luce, dei riflettori su delle vicende che magari non sono sempre chiarissime. A parte parlare tra poco di Electrolux, con un'analisi che tu farai su anche la vicenda di Fiat, a molti ascoltatori e ascoltatrici chiedono di capire come erano legate, perché erano legate in questo decreto legge IMU e Banca d'Italia, e perché c'è stato tanto ostruzionismo da parte del Movimento 5 Stelle sulla questione Banca Italia. Allora, dividiamo in due. Sì. La prima, perché erano collegate? Perché si era posto mano a una rivalutazione delle quote di partecipazione delle banche all'interno del capitale della Banca d'Italia, che erano ferme dal 1936. Che cosa significa questo? Significa che le partecipazioni che hanno le singole banche all'interno della Banca d'Italia come proprietarie, diciamo così, fisiche delle ricchezze della Banca d'Italia, a cominciare dall'oro, che è il terzo, la terza riserva di oro del mondo, quella della Banca d'Italia. Erano diciamo così calcolate sulla base di parametri del secolo scorso, quindi era assolutamente necessaria una riforma sia del sistema di valutazione delle quote sia della governance interna alla banca. Le due cose sono state messe in questo provvedimento che oggi sta così tanto fatto discutere, diciamo così. Senti, ma non è per caso quell'escamotage che alcuni in modo critico definiscono la TASH, cioè in uno stesso decreto delle iniziative eterogenee tra loro, in modo che quella più popolare, quindi l'abolizione dell'IMU, si trascina dietro un po' nascondendo la questione di Banca Italia? È possibile? Voglio dire, questa può essere un'argomentazione di chi ha cura, diciamo così, più la polemica che non la sostanza, diciamo, credo, perché le due cose sono in parte collegate, perché a fronte della rivalutazione di 7 miliardi e mezzo che viene fatta in capo alle banche, poi spieghiamo anche cosa significa che la Banca d'Italia diventerà una public company, è previsto un aumento delle tasse, perché naturalmente le banche aumentano il loro grado di patrimonializzazione, quindi gli è stato calcolato sulla base del nuovo parametro di patrimonializzazione l'anticipo di IRES con il quale viene coperta la mancata seconda rata IMU. Quindi i due provvedimenti sono collegati anche da questo. Non a caso oggi il governo si affannava a spiegare che non era così semplice scindere i due temi, perché si sarebbe creato un buco di copertura. Non dimentichiamolo che viene calcolata una riparametrazione delle quote Banca Italia che vale 7 miliardi e mezzo e verrà messa su un mercato, diciamo, ristretto tra operatori economici, naturalmente banche, compagnie di assicurazione e fondi pensione, con dei vincoli, cioè non possono superare quote del 5%, eccetera. Ma dimmi una cosa, Alberto, può apparire paradossale magari che la Banca d'Italia è un istituto pubblico ma è proprietà privata e i suoi azionisti sono le banche? Beh sì, questo è, come dire, è un ircocervo, per così dire, che accompagna la banca fin dalla sua fondazione, però è fondamentale mantenere l'indipendenza operativa ed azione della banca centrale, che è stata stabilita quando si è creato il famoso divorzio dalle sorti del governo e del tesoro, che in un primo tempo la controllava e ne controllava le azioni, creando quello sì un vincolo politico sulla gestione poi dei titoli del debito pubblico, che non faceva bene al normale fluire delle dinamiche di mercato anche su questo tipo di titoli. Bene, dicevo, è fondamentale mantenere l'indipendenza ed è alla base della scelta di questo provvedimento, nel senso che oggi le quote di partecipazione, siccome il mondo del credito è cambiato, si è molto consolidato, ci sono dei grandi player globali oramai, le banche italiane, da una parte Unicredit, dall'altra Intesa San Paolo, ci troviamo di fronte a una Banca d'Italia controllata per oltre il 50% solo da due banche, e questo poteva creare un qualche problema di indipendenza effettiva. Rendendo la banca una public company con altri attori finanziari, questa cosa viene molto diluita e quindi da un certo punto di vista si possono evitare potenziali conflitti di interesse. Senti Alberto, invece sulla questione Electrolux, allora io, a parte una questione delicata eccetera, però oggi a proposito di voci contrastanti, allora alla fine, almeno per oggi, del negoziato al Ministero dello Sviluppo, il ministro Zanonato ha detto l'azienda non ci ha convinto, poi invece leggo un'altra agenzia, i governatori delle regioni coinvolte nelle vari stabilimenti dell'Electrolux si dicono soddisfatti, oggi è stato fatto un passo avanti. Tu ci hai capito qualcosa? Diciamo la cosa importante è che questa avvertenza dell'Electrolux si è finalmente incardinata su un tavolo, per dirla in sindacalese. Si è perso un sacco di tempo su questa faccenda, e sono mancati degli interlocutori credibili e, come dire, omogenei a chi hai dall'altra parte del tavolo, cioè una grandissima multinazionale dell'elettrodomestico, e qui che non potevano essere i sindaci di tre o quattro paesi del Friuli, ma sicuramente doveva essere il governo e l'espressione più alta a livello istituzionale, sia locale che nazionale. Quindi da oggi è cominciata la trattativa, come si suol dire, si è aperto il tavolo. In gioco ci sono cose strategiche molto importanti, perché comunque lo stabilimento di Porcia, per ora, con i numeri che hanno fatto vedere i manager dell'azienda, produce in perdita, diciamo così, rispetto ai costi di produzione e ai margini che garantiscono gli altri stabilimenti, sia italiani che internazionali. E quindi quello è sicuramente un problema che va risolto nella gestione industriale di questo stabilimento. E sarà l'oggetto della trattativa. Da parte del territorio era venuta fuori una sfida a fare di Pordenone una zona franca manifatturiera, diciamo, tagliando il costo del lavoro del 20%. È un'iniziativa lodevole, locale, ma che va sicuramente presa come stimolo per fare un'azione però nazionale. Però forse per il costo, tagliare il costo del lavoro sarebbe più da tagliare il cuneo che non gli stipendi dei lavoratori. Esattamente, infatti diciamo, noi dobbiamo prendere il buono, per così dire, da questa avvertenza e trasformarlo in un'azione di politica economica e politica industriale vera. L'importante è che la trasformazione avvenga effettivamente. Senti, invece, ultima cosa, proprio un commento sintetico sulla vicenda Fiat. La vicenda Fiat viene a coronamento, un'azione che porta la fabbrica italiana automobili Torino a diventare una grande multinazionale, come è nei fatti, italo-americana o quasi più americana-italiana, per così dire, con addirittura una sede formale in Olanda e poi quella fiscale a Londra. A Londra, si è un po'... Ecco, è una vera multinazionale, agisce come agiscono le multinazionali che ben conosciamo, che abbiamo sempre pensato fossero dei soggetti esteri. Ora il cuore, diciamo così, di partenza e l'anima erano italiane, si sono evolute, e devo dire la gran parte degli stabilimenti italiani sono salvati da questo tipo di azione che è stata fatta, rendendo l'azienda in un primo tempo bicefala, cioè italo-americana, e poi adesso a condurla a un assetto da vera multinazionale globale. Insomma. Chiarissimo, grazie Alberto Rioli, quante grazie cose. Grazie, ciao, buon lavoro, buona continuazione. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E adesso è il momento dell'appuntamento con l'Europa, visto che appunto a maggio si vota, parliamo di pensioni minime, Strasburgo striglia l'Italia, l'ammontare mensile delle pensioni minime italiane è inferiore a 500 euro, è inadeguato. E Annalita D'Ambrosio ha intervistato su questo Stefano Zamagni, l'economista ex presidente dell'Agenzia per il Terzo Settore. Europa 24 notte. Verso le europee. Oggi il Consiglio d'Europa ci dice che la linea di politica economica, ma soprattutto sociale italiana, non segue i criteri della cosiddetta Europa sociale. E ovviamente è una tirata d'orecchie che avrà sicuramente un impatto, anche se non mi illudo che i provvedimenti per la bisogna vengano presi. Perché? Ma perché continua a dominare nel nostro paese un'idea di welfare cosiddetto redistributivo. Oggi tutti sanno, dovrebbero sapere, soprattutto i politici, che il welfare redistributivo ha finito la sua corsa e si deve andare verso un welfare generativo, come viene chiamato. Ebbene, perché le pensioni sono troppo basse? Appunto, perché all'interno della logica di un welfare redistributivo, secondo la quale bisogna redistribuire un po' a tutti, come si suol dire, è evidente che non tenendo conto delle contribuzioni individuali e delle reali situazioni di bisogno, si finisce col dare poco a tutti, col risultato che questo è messo in. L'altro tirata d'orecchie, che ancora per certi aspetti è più grave, perché quella sulle pensioni in qualche modo può essere corretta con provvedimenti di ingegneria finanziaria e di volontà politica. L'altro invece è più grave, perché ci viene detto che l'Italia, nonostante le retoriche dei tanti retori che pontificano qua e là, non ha una politica sociale adeguata, non ha ancora una politica sul reddito minimo garantito, non ha una politica della famiglia. A tutt'oggi in Italia, dal dopoguerra ad oggi, non esiste una sola legge, dico una, specificamente dedicata alle politiche familiari. E quando dico politiche familiari, lì dentro ci sono gli anziani non autosufficienti, ci sono i portatori di handicap, ci sono i bambini e l'infanzia e via discorrendo. Professore, ma mi perdoni se la interrompo, ma secondo lei questo dipende dal fatto che in Italia non c'è stabilità di governo? Cioè, si collega a questo o non c'è proprio volontà in questo senso? No, non è un problema di stabilità di governo, perché questi provvedimenti, come si dice ormai in gergo, dovrebbero essere bipartisan, cioè dire non possono avere una collocazione di destra o di sinistra, o meglio, è evidente che un governo di sinistra tenderà ad accentuare certi aspetti piuttosto che altri, però il fatto che non si faccia nulla, questo sia dalla destra sia dalla sinistra la dice lunga, cioè si fanno soltanto provvedimenti tampone sull'onda di situazioni come quella di questa mattina o di proteste, come si suol dire, di piazza, cioè non c'è una linea strategica come hanno invece gli altri paesi. Europa 24 notte in collaborazione con Euronet Plus. Tempo di capire che tempo farà, evidentemente colonnello Mario Giuliacci, ciao, qualcuno trattiene la neve che doveva cadere da 3 giorni su Milano, sta cadendo altrove, qui piove, qualcuno trattiene? Sì, buonasera Roberta, ciao, colonnello. In effetti no, era stato detto che avrebbe nevicato sul Piemonte, sui laghi lombardi, su Varesotto e nel milanese, beh, è mancato l'appello il milanese, ecco. Non è che voglio dire la previsione è stata completamente errata, noi parliamo a Piemonte, l'alta Lombardia, a parte le Alpi eccetera eccetera, dove ovviamente anche lì era stata prevista neve, e ritengo a questo punto che probabilmente il milanese se la caverà, nel senso che se non nevica prima di mezzanotte, domani sarà improbabile che possa nevicare, perché le temperature dovrebbero riprendere a salire. Quindi una scadenza, se non nevica entro lì, se non vediamo fiocchi, vuol dire che l'abbiamo scampata, al di là della bellezza scampata, della neve per certi versi. Sì. I meteorologi saranno un po', diciamo, sotto inchiesta, ma voglio dire, attenzione, a parte che era stato detto che la nevicata sarebbe stata inconsistente, io nel mio sito ho sempre detto inferiore a 5 centimetri, quindi con l'errore che si può fare poteva essere anche 0 centimetri, così come 10 centimetri, insomma, ecco. Però ripeto, attenzione che sul Piemonte, sul l'entroterra ligure, sulle Alpi centro-occidentali, sui laghi, fino alla Malpensa ha nevicato e sta nevicando, per cui però questa fase di pizzico d'inverno durerà anche domani, perché sul Piemonte e sempre sulle regioni alpine, entroterra ligure fino al Piacentino seguiterà a nevicare anche nella giornata di domani, ma probabilmente sarà ancora risparmiato il milanese. Un altro dato di rilievo è che poi da venerdì le temperature riprenderanno a salire, già domani piogge su gran parte del centro-nord e sulle isole, laddove non nevica, poi venerdì, sabato, domenica e lunedì, 4 giornate piovose con direi preoccupanti accumuli, soprattutto nel Friuli, sulla Calabria e anche sui laghi lombardi. Quindi ritorna l'autunno, quindi questa parentesi invernale è stata e sarà brevissima, ritorniamo come eravamo almeno fino a 10 giorni fa. Questo continua via vai di perturbazioni atlantiche, miti, ma portatrici di molte piogge. Senti, in una parola, colonnello, per chiudere, tu pensi che potremmo farcela fino a marzo così con temperature abbastanza decenti? No, ritengo di no. Cioè, fino alla metà di febbraio probabilmente sì, ma non dimentichiamo che l'inverno dal punto di vista meteorologico termina alla fine di febbraio, quindi è ancora molto probabile che nella seconda metà di febbraio e come qualche volta è avvenuto anche nella prima decade di marzo ci possa essere ancora almeno un'altra ondata di freddo. Va bene, quindi non illudiamoci. Grazie colonnello Giuliacci, poi noi ci sentiamo anche venerdì, intanto www.meteogiuliacci.it. Ciao colonnello. Grazie Roberta, buonasera. Ciao. Spostiamoci invece sulle faccende calcistiche con Dario Ricci. Dario, questa faccenda della Nocerina espulsa quindi praticamente da quella che è la Serie C. Sì, è stata con effetto immediato, sanzione decisa dalla commissione disciplinare della Federcalcio, Roberta, in relazione ai fatti, lo ricorderai, del derby farsa dello scorso 10 novembre con la Salernitana, no? Quando la partita venne interrotta dopo 21 minuti di gioco perché tra cambi e finti infortuni i giocatori della Nocerina non ce n'erano più praticamente sì, erano rimasti in 7 e quindi l'arbitro era stato costretto a sospendere la partita. Perché questo? Perché in precedenza c'erano state le minacce degli ultra nei confronti degli stessi giocatori nel disputare questo derby a dir poco sentito, ecco, per usare un eufemismo. È arrivata questa decisione, la Nocerina ha preannunciato ricorso, ma è chiaro che è una mazzata per il club, ma anche una mazzata per il campionato stesso. Perché questo significa la retrocessione fra i dilettanti che potremmo essere io e te, per esempio, ci tiriamo due calci con diciamo che quasi. Sì, sopravvalutando le mie doti calcistiche, non mettendo però, in dubbio le tue, potremmo sicuramente giocarcela. Il problema tra l'altro sta nel fatto che con questa sanzione chiaramente i risultati della Nocerina finora acquisiti sul campo rimangono. Da domenica prossima in poi tutte le avversarie vincono per 3-0 la sfida che hanno in calendario contro i campani, ma nel caso che il ricorso della Nocerina venisse accolto bisognerebbe recuperare tutte queste partite e quindi ci sarebbe veramente uno sconvolgimento del calendario. È pur vero che tutta la vicenda dal punto di vista sportivo dovrebbe chiudersi almeno entro metà febbraio e quindi avere chiarezza anche in questo senso, ecco. Bene, quindi le altre in realtà hai detto se invece non fosse accolto vincono 3-0, hai detto, no, questi 30 diciamo secondi che, no, a tavolino. Con questa sanzione, con l'esclusione della Nocerina, tutte le partite da domenica prossima alla fine del campionato sono assegnate per 3-0 agli avversari. La cosa particolare. Tutte le gare invece disputate rimangono col risultato acquisito, ma nel caso il ricorso della Nocerina venisse accolto, si rifaranno tutte. Bisognerebbe rifare tutte quelle assegnate per 3-0 agli molto avversari. Molto chiaro. Dario, intanto guarda che aggiornamenti ci sono tra Napoli e Lazio perché ci aggiorniamo tra poco. Ci lasciamo adesso, ma tra pochi istanti. Ciao.